Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci troviamo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, in ore particolarmente decisive per la staffetta. La staffetta, non quella di Sochi, dei giochi invernali olimpici in Russia. No, è una gara, questa tutta italiana, che in realtà si sta giocando da un po' di tempo, prima in modo più sotterraneo, poi in modo più evidente. Praticamente un derby, si potrebbe dire, quello tra Letta e Renzi. Infatti pare, insomma, che il governo sia in bilico, che forse si sia deciso che Renzi sia deciso, dico in generale, insomma, da più parti, prenda il posto di Letta. Letta però a quanto pare resiste, sembra che l'ultimo nodo si dovrebbe sciogliere giovedì, anzi rimane in realtà un altro nodo, che è quello di capire che lavoro farà poi Letta, cioè quale può essere la via d'uscita, che cosa gli si offrirà. E poi invece vi voglio anche sottolineare questa notizia, che è molto così marginale, però per dire a volte le stranezze del mondo. Allora, pensate che alcuni fan di Michael Jackson sono riusciti ad avere una specie di risarcimento, sì, un danno emotivo dopo la morte di Michael Jackson. Hanno fatto ricorso e hanno ricevuto come risarcimento, quattro di questi fan che hanno fatto ricorso, un euro ciascuno come risarcimento. Loro dicono soddisfatti, contenti loro, insomma, si accontentano di poco, ma potranno anche accedere come vittime di questo danno emotivo e simbolico, insomma, alla tomba di Michael Jackson, che è vietata invece a tutti gli altri a Los Angeles. Ma adesso andiamo sulle questioni serie e partiamo con i fatti principali di oggi. Governo, la staffetta tra Letta e Renzi diventa sempre più probabile, tutto si deciderà giovedì, ma Letta vuole resistere. Referendum svizzero, sale lo scontro fra l'Unione Europea e la Svizzera, capitali e persone sono legati, dice il Consiglio Europeo. OGM, gli stati europei se ne lavano le mani e così Bruxelles sarà costretta a autorizzare un tipo di mais geneticamente modificato. Algeria, oltre 100 vittime nel paese nello schianto di un aereo militare, una persona è sopravvissuta. Cinema, addio Riccioli d'Oro, è morta a 85 anni Shirley Temple, il bimba prodigio del grande schermo, star negli anni 30, fu anche ambasciatrice. E calcio, tra Fiorentina e Udinese, la Coppa Italia sceglie la prima finalista. E naturalmente da dove dobbiamo partire se non dalla politica italiana, perché vi dicevo sono ore di fibrillazione a Palazzo Chigi. Rilancia Enrico Letta, rilancia contro il possibile avvicendamento di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Il premier sale al Quirinale dal capo dello Stato Giorgio Napolitano in mattinata per presentare il patto di coalizione che piacerà, dice, anche al PD. Ma le voci di dimissioni si fanno sempre più insistenti. Roberto Speranza, PD, conferma la volontà del partito di non andare alle elezioni, ma nulla di più. Non penso che ci sia un problema, diciamo, di nomi, abbiamo sentito parlare molto di Renzi, Letta, è un derby che sinceramente lascia il tempo che trova. Noi abbiamo bisogno di dare risposte ai problemi degli italiani e per questo serve un governo forte. Su Letta bis sono ormai pochi a scommetterci, così Andrea Romano di Scelta Civica. Io credo che Letta sia un uomo di grandissima esperienza, che ha avuto tra l'altro in questi mesi un onere particolarmente impegnativo. E sono convinto che lui per primo si renda conto della necessità di aprirla questa fase nuova. Allora il mio è un appello alla sua esperienza, alla sua generosità. Mostri quella generosità che ha sempre avuto nella sua storia politica, favorendo lui stesso l'apertura di questa nuova fase. Intanto Angelino Alfano del nuovo centrodestra twitta: pronti per una ripartenza, ma il PD deve chiarire se sostiene ancora Letta. L'Italicum slitta la prossima settimana, mentre la direzione del PD viene anticipata a giovedì. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 ore, Roma. E questa possibile staffetta tra Letta e Renzi, data, come avete sentito, sempre per più probabile, potrebbe essere il vostro argomento, se volete, per le vostre opinioni, sia attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso i messaggi al 349-238-6666. Intanto Letta ha parlato a Milano oggi, dove ha visitato la BIT, la fiera del turismo che aprirà giovedì, ed è intervenuto all'inaugurazione dell'Unicredit Tower in piazza Gaio Leti. Sentiamolo. Io lavoro con l'occhio puntato agli obiettivi delle cose da raggiungere. Aggiungo anche che nelle prossime ore presenterò il patto di coalizione, la mia proposta di patto di coalizione ai partiti che sostengono il governo. Proporrò un patto di coalizione molto centrato sul tema del rilancio economico, quindi sono convinto che tutto questo va esattamente nella direzione del successo di una opportunità come quella dell'Expo, alla quale non smetto di ripetere mi sento legato, ma sento soprattutto che il Paese debba essere profondamente legato, quindi credo che si vada nella direzione giusta. Si va alla guerra, ora si va alla guerra, è un'agenzia di poco fa, nella frase, questa sarebbe di uno dei più stretti collaboratori di Enrico Letta, pronunciata al telefono da Palazzo Chigi, c'è tutto il senso della strategia che domani il Premier metterà in campo, probabilmente in una conferenza stampa, anche se ancora da convocare ufficialmente. Letta passerà dunque al contrattacco rispetto all'offensiva condotta da Matteo Renzi, insomma ce ne saranno da vedere delle belle. È stata intanto bocciata, restando sulla politica italiana, la richiesta del Movimento 5 Stelle di mettere sotto accusa il Capo dello Stato. La richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica Napolitano del Movimento 5 Stelle non supera il primo passaggio parlamentare. Con 28 voti favorevoli è passata infatti la proposta per l'archiviazione presentata dal Partito Democratico, 8 i contrari, tutti del Movimento 5 Stelle. Non ha partecipato alle votazioni Forza Italia, siamo contrari all'accelerazione impressa al provvedimento dal PD, spiega Brunetta. Gelmini aggiunge: allo stesso tempo diciamo che gli italiani hanno diritto di conoscere la verità e certamente sui fatti accaduti nell'estate 2011 ci sono ancora molti aspetti da chiarire. La richiesta di impeachment è stata rigettata per manifesta infondatezza, ha spiegato il presidente del comitato La Russa. La replica del Movimento 5 Stelle nelle parole di Giarrusso: accuse che non sono accadute, noi intendiamo fare piena luce su quanto accaduto nel nostro paese negli ultimi anni. Napolitano attacca quindi Grillo e oggi il problema principale di questo paese, prima viene rimosso, prima l'Italia potrà ripartire. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vedo un'agenzia di questi istanti molto importante che riguarda il Piemonte e poi il ricorso che c'era stato sul voto. Bene, il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso di Cota, dell'attuale presidente della regione, quindi si torna al voto. Questa è la notizia ufficiale: in Piemonte si torna al voto per decidere chi sarà il presidente di regione. Dopo magari ci torniamo su questo argomento, però intanto si intensifica lo scontro fra Unione Europea e la Svizzera dopo il referendum, ne abbiamo parlato ieri, che limita le quote di immigrati e quindi ha effetti sulla libera circolazione delle persone. Sullo sfondo resta sempre l'ipotesi delle sanzioni. Nel frattempo l'Unione Europea interrompe i negoziati sull'elettricità e fa piombare sulla Svizzera un severo richiamo: onori i propri obblighi sul diritto pubblico internazionale. L'esito del referendum, che limita gli ingressi di lavoratori nella Confederazione Elvetica, congela di colpo le relazioni tra Bruxelles e Berna e il primo segno concreto è l'annullamento della riunione del 17 febbraio. Alla luce della situazione attuale non è previsto alcun negoziato tecnico, fa sapere la portavoce della Commissione europea, bloccando così d'un colpo trattative iniziate nel 2007 per l'ingresso della Svizzera nel mercato unico dell'energia. Il principio che l'Unione europea vuole più di tutti garantire è l'impossibilità di accettare una divisione tra libera circolazione degli individui e dei capitali. Le quattro libertà fondamentali, avverte il presidente di turno del Consiglio, il greco Evangelos Venizelos, sono parte integrante dei rapporti tra UE e Confederazione Elvetica. In sostanza, non si può mettere in discussione la libera circolazione delle persone senza toccare tutto il resto. E ora tutto torna nelle mani di Berna, nella consapevolezza che nel grande freddo provocato dal referendum potrebbero essere coinvolte pure le dogane. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Intanto la Commissione europea sarà costretta a autorizzare un tipo di mais geneticamente modificato, poiché sulla questione tra i ministri dei 28 non è emersa nessuna maggioranza qualificata. I governi dell'Unione non hanno deciso oggi se autorizzare o vietare la coltivazione di un nuovo mais OGM, il Pioneer 1507. La scelta, per motivi procedurali, passa quindi alla Commissione europea, che per via di una sentenza della Corte europea di giustizia del Lussemburgo dovrà autorizzarne la coltivazione. Nel tentativo di evitare una scelta che potrebbe apparire controversa in molti Paesi membri, i governi hanno deciso di discutere rapidamente una direttiva che permetterà ai singoli paesi se consentire o meno la coltivazione di OGM sul proprio territorio. La vicenda è politicamente e giuridicamente ingarbugliata. Per anni i governi non hanno trovato un accordo sugli OGM, che in molti paesi provocano dubbi sanitari, ecologici o economici. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E restiamo all'estero. Un aereo militare C-130 algerino con 103 persone a bordo si è schiantato oggi nel nord dell'Algeria. Sull'aereo viaggiavano militari con le loro famiglie, ci sarebbero solo un sopravvissuto, finora sono state recuperate 71 salme. Roberto Berardi rischia la vita e la Farnesina, a proposito di persone, di italiani detenuti all'estero, naturalmente ognuno con motivi diversi, Roberto Berardi rischia la vita e la Farnesina sta facendo poco. Così Rossella Palumbo, ex moglie dell'imprenditore italiano detenuto in Guinea Equatoriale, che è riuscito nei giorni scorsi a documentare le presunte torture subite inviando delle foto da un telefono rubato, e da quel momento racconta la donna, che è intervenuta oggi a Effetto Giorno, ha ritorsioni continuamente, non viene alimentato, gli viene data pochissima acqua ogni giorno, vive in isolamento, insomma lei dice rischia la vita e chiede che si faccia qualcosa. Le condizioni di Roberto sono pessime, ha ritorsioni continuamente, non viene alimentato, gli viene data pochissima acqua una volta al giorno, vive in isolamento da quasi 2 mesi in una cella di 3 metri per 2, dove non ha possibilità ovviamente di vedere nessuno. Sta quasi sempre al buio, in uno stato dove c'è un caldo torrido. È a rischio della vita? Sì, sì, in condizioni pietose, non sappiamo quanto riuscirà a resistere ancora. Siamo alla cronaca, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta sul suicidio della 14enne morta domenica a Cittadella vicino Padova. Viste le incitazioni a uccidersi rivolte alla 14enne sul social network Ask FM, il capo d'accusa potrebbe andare dai maltrattamenti all'istigazione del suicidio. Di questo poi ne parleremo con un esperto, con uno psicoterapeuta psichiatra. Parliamo adesso di un'importante operazione contro l'andrangheta fra Italia e Stati Uniti. La Pizza Connection, il grande traffico di droga tra l'Italia e gli Stati Uniti, non è mai finito. Sono soltanto cambiati i protagonisti, alla mafia siciliana si è sostituita l'andrangheta calabrese. Dall'altra parte dell'oceano, negli USA, invece, a comandare in questo settore è sempre la potente famiglia Gambino, come dimostra l'operazione che ha portato in carcere 24 persone tra l'Italia e New York, dove gli arresti sono scattati contemporaneamente. William Nardini, magistrato di New York. Il ponte che esiste tra gli Stati Uniti e l'Italia non è mai finito, e ogni volta che noi riusciamo ad individuare un gruppo che sta cercando di compiere questi obiettivi illeciti, saremo lì a contrastare questi sforzi. Un'operazione che è stata possibile anche grazie ad alcuni agenti infiltrati che hanno individuato l'uomo chiave del narcotraffico, Frank Lupoi, arrivato in Italia dagli Stati Uniti, accompagnato dalla sua amante polacca, per organizzare il traffico di droga, un traffico tanto redditizio da attirare l'interesse dei narcos sudamericani, anche loro coinvolti in questa operazione congiunta della polizia italiana con l'FBI. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo in proposito il commento di Daniele Biacchessi. In codice gli investigatori l'hanno chiamata New Bridge, l'inchiesta sul nuovo ponte che la piovra internazionale tentava di costruire tra Italia, Stati Uniti e Sud America. E non sono tanto le 24 persone arrestate a determinare questo pericoloso asse criminale, quanto le modalità utilizzate dall'andrangheta calabrese, Cosa Nostra italo-americana, i narcos messicani e colombiani per comprarsi il mondo attraverso il riciclaggio del denaro proveniente dalla vendita di sostanze stupefacenti. Comprarsi il mondo, avete capito bene, perché tonnellate e tonnellate di cocaina, ridotta allo stato liquido e sciolta in barattoli di cocco e ananas, sarebbero giunte in Italia su container diretti al porto di Gioia Tauro. La vera novità è dunque il grande salto di qualità dell'andrangheta, che dopo essersi infiltrata nel nord Italia, in Europa, in Germania soprattutto, cerca oggi di conquistare spazi criminali sempre più ampi. Per le 'ndrine calabresi poteva apparire un sogno: esportare eroina in America e importare cocaina in Italia attraverso i rapporti dei Gambino con i narcos. Il sodalizio tra magistrati e investigatori, alcuni anche sotto copertura, questo sogno lo hanno spezzato. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è stato un lutto nel cinema, è morta Shirley Temple, l'attrice hollywoodiana, aveva 85 anni, divenne una star mondiale negli anni 30 negli Stati Uniti, periodo della Grande Depressione, quando da bambina fu protagonista di vari film come Bright Eyes, Stand Up and Cheer and Carly Top. Siamo allo sport, con le Olimpiadi Invernali di Sochi, oggi c'era una specialità che non c'è mai stata alle Olimpiadi, è vero Maria Pia Valbertlan a Sochi? Maria Pia? È proprio, sì, pronto. Eccoci, in diretta da Sochi. Ok, scusatemi che ho avuto un problema di collegamento, non vi ho sentito molto bene. Non ti preoccupare Maria Pia, dicevo che oggi c'è stato lì a Sochi, dove sei tu, nelle Olimpiadi invernali, c'è stata per la prima volta una specialità femminile, non c'era mai stata, no? Esatto, per la prima volta nella storia proprio il salto con gli sci è stato al femminile, quindi in rosa. Il salto con gli sci, ricordiamo, è una disciplina che è entrata nel mondo olimpico dal 1924 per quanto riguarda gli uomini. Sì. Oggi per la prima volta nel 2014 anche le donne hanno fatto questa competizione a livello olimpico, chiaramente già esistevano i campionati mondiali eccetera. La nostra italiana Evelyn Insam ha quasi sfiorato l'impresa perché si è classificata quinta dietro la favorita giapponese Takanashi, che è rimasta a sorpresa fuori dal podio, quindi ci siamo andati proprio vicinissimi. Grazie Maria Pia Vals Beltran, ci sentiamo magari domani, ci aggiorniamo con le prossime novità, perché continuano naturalmente. Adesso invece passiamo al calcio. Dario Ricci, qui si decide la finalista o la semifinalista in Coppa Italia? La finalista, no. Roberta, la prima finalista della Coppa Italia, in campo al Franchi Fiorentina Udinese. Si parte dal 2-1 per i friulani, ma la Fiorentina pochi istanti fa, al 16° di gioco, è passata in vantaggio con la rete del capitano Pasquale, bravo a insaccare al volo di sinistro un preciso assist di testa di Matri. Il risultato, che se dovesse rimanere questo 1-0 per i viola, lo ricordiamo, qualificherebbe proprio la Fiorentina per la finale, e domani c'è un'attesissima Napoli-Roma che deciderà l'altra finalista. Ma insomma, al Franchi la partita è ancora tutta da giocare. E quindi poi ci aggiorniamo naturalmente anche sulla partita di domani, visto che c'è tanta attesa. Bene, la giornata sinteticamente è questa, poi dopo comincerò a entrare un po' in certi temi con gli ospiti. Come sempre, se voi volete esprimere le vostre opinioni, fare i vostri commenti, in particolare su questa staffetta sempre più imminente tra Letta e Renzi, così almeno sembra, c'è la pagina Facebook effettonotte_Roberta Giordano, oppure i messaggi al 349-238-6666. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E che notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Adesso, prima di passare alla questione centrale di oggi, quindi alla politica, questo passaggio così importante, vi ricordo, se aveste acceso la radio in questo momento, ricordatevi però di essere puntuali alle 21, poi magari qualcuno scende e risale. Vi ripeto allora quali sono i titoli principali. Governo, la staffetta tra Letta e Renzi diventa sempre più probabile, tutto si deciderà giovedì. Napolitano ha detto pochissimo fa, ha detto sul governo la parola va al PD. Piemonte, il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Cota, si torna quindi al voto. Referendum svizzero, sale lo scontro tra l'Unione Europea e la Svizzera, capitali e persone, dice il Consiglio Europeo, sono legati. OGM, gli Stati Europei se ne lavano le mani e così Bruxelles sarà costretta ad autorizzare un tipo di mais geneticamente modificato. Cinema, addio a Riccioli d'Oro, è morto 85 anni Shirley Temple, il bimba prodigio del grande schermo. E per il calcio, tra Fiorentina e Udinese, la Coppa Italia sceglie la prima finalista. Orbene, quindi avete capito di cosa per forza si parlerà prima di tutto, visto che sembra che le cose, non so se dire, stiano precipitando, stiano prendendo forma, stiano decollando, insomma, a seconda dei punti di vista. Per Ernesto Carbone, deputato del PD renziano, è una buona notizia quindi che Renzi forse si decide al passo o lo fanno decidere? Buonasera Carbone. Buonasera a voi, buonasera a tutti. No, ma non siamo ancora in attesa delle decisioni del Presidente del Consiglio. Abbiamo tre proposte che possono essere una, quella del governo che duri altri 10 mesi, la seconda proposta è quella di andare a votare con un sistema elettorale che esce fuori dal Parlamento, quindi l'Italicum, oppure quello fuoriuscito dalla sentenza della consulta, oppure un governo di legislatura. Tocca, in questo caso, Enrico Letta fare le sue proposte, avanzare le sue idee, e il PD come sempre sarà leale. Napolitano ha appena detto la parola passa al PD, quindi insomma, cioè, naturalmente il partito di maggioranza nella maggioranza, e quindi deve decidere Letta, oppure il nodo è effettivamente quello, leggevo poco fa, di cercare di trovare insomma un ruolo poi a Letta per una diciamo discesa soft da questo ruolo di Presidente del Consiglio, di chi si è preso comunque sulle sue spalle la responsabilità di gestire e di governare l'Italia in un momento difficile. Ma guarda, non riduciamo tutto alla ricerca di ruoli, perché non è questo il problema è far ripartire il paese. è un paese che ha bisogno in questo momento di avere una prospettiva lunga, ha bisogno di riforme, ha bisogno di cambiare un po' di cose che purtroppo non funzionano da troppo tempo, ha bisogno di ripartire, in poche parole. Sentiamo Crozza come parte adesso a Ballarò, qualche istante. L'esecutivo è nelle mani della provvidenza. Della provvidenza. Pensa che bel segnale per i mercati, Giova. Pare che gli investitori arabi abbiano subito commentato. Che significa? Let, ridacci tutto 500 milioni che ti abbiamo dato la settimana scorsa, piuttosto ce li giochiamo alla corsa per i cammelli. Bulenz. Letta si affida alla provvidenza. Ma cazzo, ma nemmeno Noè era così fatalista. È vero, senatrice Stefania Giannini di Scelta Civica, segretaria di Scelta Civica, neanche Noè. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma guardi, io credo che si debba restituire subito e con forza al Partito Democratico ciò che è del Partito Democratico, cioè la responsabilità tra gli scenari che descriveva prima l'onorevole Carbone, che saluto, quale il Partito Democratico ritiene di dover proporre ai colleghi di maggioranza e al Paese. Noi abbiamo, mi pare, 8-9 mesi fa a questo punto proposto l'idea del contratto di coalizione dettagliato, con tempi certi, con modalità definite nella condivisione delle priorità per il Paese, come strumento per arrivare al governo e alle soluzioni che l'Italia chiede a questo governo. Purtroppo sono stati mesi di immobilismo, particolarmente da dicembre ad oggi, e quindi il tempo è scaduto per quello che ci riguarda. Io credo che giovedì, visto che la riunione della direzione del Partito Democratico è stata stabilita, e meno male, dal 20 l'abbiamo chiesto soprattutto noi, anticipata al 13, si dovrà definire questa linea. Per quello che mi riguarda, se io devo scegliere, è chiaro che scelgo un orizzonte di legislatura costituente che dia quelle riforme strutturali che sono state, la cui mancanza è stata il vero problema che ha fatto dell'Italia il fanalino di coda dell'Europa. E per questo, senatrice Giannini, che oggi il suo collega di Scelta Civica Andrea Romano ha proprio chiesto apertamente e chiaramente le dimissioni di Letta. Ma sa, io preferisco la tribuna, qualche mio simpatico autorevole collega sceglie la curva sud per dare messaggi che però politicamente sono quelli di una critica severa, e l'avevo fatto io poche ore prima, a questa fase di paralisi e di immobilismo, e un richiamo molto forte, ripeto, non necessariamente alla sostituzione alla guida della macchina, ma semplicemente di responsabilità del maggiore azionista di maggioranza per indicare la strada e il pilota. Noi siamo pronti se le priorità che abbiamo indicato da mesi, il lavoro, il fisco, tutto quello che ridia competitività e crescita, saranno sul tavolo domattina, e se si avrà anche, mi lasci dire, anche questo io l'ho detto in tempi non sospetti, quando certe parole facevano scatenare reazioni molto forti da parte dei colleghi di maggioranza, una squadra di governo adeguata che va assolutamente a questo punto cambiata e che deve dare un tratto di discontinuità, perché c'è una maggioranza nuova, ci sono esigenze trasformate rispetto a quelle di aprile 2013, e quindi questo è il dovere nostro e soprattutto del Partito Democratico. Un attimo, Crozza, che forse sta parlando tramite Renzi. La montatura degli occhiali può andare. Perché, signori miei, ricordatevi, non mi preme fare il premier, ma essere premiato per avere alle primarie primeggiato. Non conquistare il trono con il votare, ma con la nobile arte suprema che usò D'Alema, l'inchiappettare. Ah, forse si rifà al derby tra Veltroni e D'Alema, Ernesto Carbone, Crozza? Ma no, ma non c'è nessun derby, ci mancherebbe. Crozza non ti commenta, Crozza ti ascolta, ti ama, ti e si sorride. Parla. Però Letta sembra che voglia resistere al momento, così dicono almeno le ultime notizie, le ultime agenzie. Anzi, mi sembra proprio che ha detto un suo collaboratore, lo leggevo poco fa, ha detto ora si va alla guerra, un collaboratore al telefono a Palazzo Chigi, sa tutte queste indiscrezioni giornalistiche, Carbone, non so, mi dica lei. Guarda, ho detto lei una parola giustissima, per il momento sono indiscrezioni giornalistiche, sono un collaboratore del Presidente del Consiglio, ha detto andiamo alla guerra, non mi fa abbastanza sorridere questa cosa. Dopodiché le proposte sono tre, tocca al Presidente del Consiglio, noi saremo leali fino in fondo. Ma lei ci crede che possa durare ancora 10 mesi? Lei onestamente, Carbone, che possa durare ancora 10 mesi questo governo? No, il governo negli scorsi 10 mesi ha fatto poco, è inutile che ce lo nascondiamo. Ha davanti una prospettiva di 8 mesi, perché il Presidente del Consiglio fu il primo a parlare alla Camera di 18 mesi di governo. Aspettiamo una sua scelta, aspettiamo una sua decisione in merito a quel che farà nei prossimi giorni e che prospettive ci darà. Secondo lei, Carbone, che cosa giovedì dice si deciderà? Che cosa, se dovesse fare una previsione, insomma, io penso che lei abbia tutti gli strumenti, le competenze, l'esperienza per poter dire, benché non abbia la sfera di cristallo, però insomma, voi che siete in Guardi, prima linea. Le ripeto, tocca al Presidente del Consiglio, non tocca a me decidere che strada prendere. Noi l'ascolteremo volentieri, abbiamo una direzione convocata, abbiamo anticipata rispetto alla data quella prevista, che era il 20, aspettiamo tranquillamente, senza problemi, decideremo tutti insieme, come abbiamo sempre fatto. Noi siamo, alla fine siamo il primo grande partito, decidiamo spesso duramente, in modo discutiamo in modo molto duro, però alla fine arriviamo a una decisione condivisa da tutti. Senatrice Giannini, voi comunque, se dovesse, lei diceva, se dovessi scegliere, insomma, la scelta la farò, sosterrete Renzi se dovesse essere questa l'opzione? Noi sosterremo, come dicevo, la scelta che fa bene all'Italia, quindi che non sia una campagna elettorale che parte giovedì e finisce tra un anno e mezzo, e che non sia una legislatura di corto termine in cui tutto quello che ci aspettiamo, cioè riforme strutturali che rispondono a debolezze strutturali, non vengono fatte. Mi permetto di suggerire molto sommessamente un metodo diverso rispetto a quello che indicava l'onorevole Carbone. Non spetta a Letta, spetta al Partito Democratico, se no diventa veramente, anche alla luce degli alleati di maggioranza e dell'Italia, una competizione tra persone, e non credo che un partito grande, se vuole essere un grande partito, possa permettersi questo lusso in una fase così critica. Quindi l'appello accorato è che il Partito Democratico, da grande partito, oltre che da partito grande, si assuma le sue responsabilità. Quindi fuori, diciamo, non da questo giro di parole, da questo concetto. Non è un giro di parole. No. Se vuole essere un grande partito, sì, deve dire: noi vogliamo questa leadership, però la sosteniamo, perché non dimentichiamoci che in questi 10 mesi il Partito Democratico è stato il maggiore azionista di questa maggioranza, quindi non era uno spettatore in tribuna, era uno dei protagonisti. La sosteniamo, affidiamo la leadership al nostro leader, quello che riteniamo che sia la persona giusta per guidare il periodo costituente e riformista, e troverà alleati convinti e motivati. E adesso, Carbone, ultima domanda. Vorrei solamente rispondere a cui diceva la collega poc'anzi. Sì. Sicuramente spetta al Partito Democratico, in quanto maggioranza di questo governo. Vorrei ricordare che Enrico Letta, ancora prima di essere Premier, è un deputato del Partito Democratico, un iscritto al Partito Democratico. Quindi è normale che le decisioni, almeno da noi si fa così, vengano prese negli organi che abbiamo, a differenza di altri partiti che non ce li hanno. Senta, Carbone, ultima domanda. Vedo che Matteo Salvini, segretario della Lega, dice: la Lega non ha pregiudizi sull'incarico a Renzi. Potrebbe entrare anche la Lega nel governo eventuale con Renzi? Deve chiedere a me, deve chiedere a Salvini questo. Ah, vabbè, insomma, lo vedo un po' glissare, Carbone, ma comunque no, capisco. Guardi, che non sto glissando, guardi, non è una questione di glissare, credo che noi faremo aspettiamo le proposte del Presidente del Consiglio, prenderemo le nostre decisioni. Se la Lega eventualmente ha dei punti che condivide con noi, dei punti programmatici, qualcosa che vuol fare con noi, ma ci mancherebbe, non c'è nessun problema. Benissimo, allora ci aggiorniamo, buon lavoro, sono grazie. Ore decisive. Grazie senatrice Stefania Giannini, grazie onorevole Ernesto Carbone, grazie, buona serata. E adesso, prima di lasciare la linea alla pubblicità, volevo leggere alcuni, mentre parlavo vedevo arrivare i vostri messaggi. Corrado che dice: una legge elettorale decente, non l'italicum, e tornare a votare, spero con un panorama di scelta che non sia ridotto a Renzi, Berlusconi o Grillo. Insomma, ancora più varietà, Corrado. Domenico: nessuno dei due, cioè né Renzi né Letta, perché non sono espressione della volontà popolare. Ma insomma, Santo dice: al voto subito con la legge elettorale rivista dalla Consulta. Poi Angelo: che Renzi venga rimandato all'asilo, così potrà finire i suoi compiti che aveva lasciato in sospeso perché si era montato la testa. Riccardo: pura strategia politica, sovrapposizione di una figura politica Renzi all'altra, Letta, la, la prima in piena ascesa, ricca di consensi, e la seconda in forte contrasto, ma detenente della presidenza. Le due figure convergono sullo stesso partito. Beh, questo mi pare abbastanza lapalissiano. Nicola, la riedizione in sedicesimo del complotto di Baffino, quindi si rifà D'Alema, un errore tattico enorme che farà perdere voti al PD, secondo Nicola. Chissà, intanto pubblicità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, sempre a vostra disposizione per le vostre opinioni, la pagina Facebook di Effetto Notte, i messaggi. Stavo leggendo adesso un messaggio di Gianni da Milano che dice: Roberta, capisco il palinsesto, ma per chi ti ascolta dalle 21 subire per 25 minuti le stesse notizie è come un pranzo dalla suocera, scusa il termine, ma che palle. Dice baci, comunque manda i baci Gianni, è perché a quest'ora io vi racconto in un primo momento la giornata, per chi magari non ha potuto, non ha avuto tempo, occasione di sentire durante il giorno quali sono state le notizie principali, e poi tenete conto che in macchina, soprattutto se ascolta la radio, non solo, molti ascoltano da casa, però ogni tanto uno sale, l'altro scende, per cui ogni tot, magari ricordando quali sono i fatti principali, si sente aggiornato, basta una sintesi. Insomma, quindi può piacere o non piacere, diciamo che è una necessità di quest'ora, poi lo vedremo col tempo. Ma adesso vi ricordo quindi i titoli principali prima di passare al prossimo ospite. Notizia principale, il governo, per quanto riguarda il governo, la staffetta tra Letta e Renzi diventa sempre più probabile, sempre più imminente, tutto pare si deciderà giovedì, e intanto Napolitano dice la parola va al PD. Piemonte, il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Cota dell'attuale governatore, si torna al voto e l'ex presidente di regione Mercedes Bresso dice giustizia è fatta. Il referendum svizzero, sale lo scontro tra l'Unione Europea e la Svizzera, che dice Unione Europea, capitali e persone sono legati, non possono essere distinti. OGM, gli Stati europei se ne sono lavati le mani, e così Bruxelles ora sarà costretta a autorizzare in Europa un tipo di mais geneticamente modificato. Il cinema con il lutto, addio a Riccioli d'Oro, è morto 85 anni Shirley Temple, la bambina prodigio del grande schermo, star negli anni 30, e per il calcio c'è la Coppa Italia con la sfida tra Fiorentina e Udinese per scegliere la prima finalista. Adesso invece torniamo a parlare dell'argomento che abbiamo già trattato ieri, ma che naturalmente continua a far discutere, cioè il voto svizzero, il referendum di domenica, che limita l'immigrazione. Non solo l'opinione pubblica, ma anche alti livelli istituzionali, insomma, sono toccati, no? Nel senso che si va a intaccare uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, che è anche quello della libera circolazione degli esseri umani. Vi ricordate, i voti favorevoli sono passati con proprio pochissimo, un margine ristretto, il 50,3%, e quindi c'è l'introduzione, probabilmente la Svizzera dovrà introdurre questo articolo, questa nuova norma nella Costituzione. Vediamo un po', adesso si cerca di seguire la via diplomatica, anche se l'Unione Europea si è molto arrabbiata su questo aspetto, però sembra che si attenda di vedere la Svizzera che decisioni prenderà, perché il referendum doveva essere vincolante. Vediamo fino a che punto ci aiuterà a capire Vittorio Emanuele Parsi, ben tornato Vittorio Emanuele. Buonasera. Geopolitologo, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Quindi dal tuo punto di vista, intanto, quali potrebbero essere le conseguenze immediate, conoscendo un paese come la Svizzera, di questo referendum? Sarà vincolante? Si cercherà una via diplomatica? Perché l'Unione Europea dice, insomma, l'Unione non è un formaggio svizzero con i buchi, certe parti sono in un modo e altre invece no, con dei vuoti. Il referendum per la Costituzione svizzera è vincolante, nel senso che non è che possono disattenderlo, non possono avere il Ministero dell'Agricoltura dopo che è stato abolito in un paio di referendum o pensare al finanziamento dei partiti come è successo in Italia. Però quello che è chiaro è che il governo svizzero è stato spiazzato, il governo, le banche, le grandi imprese sono tutte contrarie a questo referendum e si trovano in una posizione quindi complicata, perché da un lato devono difendere quella che è il dettato della volontà popolare e dall'altro devono dialogare con le istituzioni dell'Unione con le quali condividono questo punto di vista. Questo referendum è sbagliato catalogarlo semplicemente come voto di xenofobia. Vittorio Emanuele, ti si sente un po' male? Forse dovresti spostarti con il cellulare, perché si capisce un po' poco. Senti meglio qui? Sì, meglio. Allora, diciamo che poi sarebbe sbagliato, io ritorno in cuffia, però se sarebbe sbagliato catalogare questo referendum come un atto di xenofobia e basta. Ci sarà sicuramente qualcuno xenofobo che ha votato così, ci sarà qualcuno che odia gli immigrati e quant'altro. Però il punto vero è che i cittadini svizzeri hanno mandato al loro governo innanzitutto un messaggio. Attraverso questo referendum un messaggio, esatto, che è quello sulla ripartizione dei costi della globalizzazione. E dicono che sostanzialmente non sono d'accordo che per consentire alle imprese multinazionali di avere i loro profitti, questo avvenga a scapito di quelle che sono le prestazioni, anche i livelli salariali dei cittadini svizzeri. È una risposta sicuramente di corto respiro, perché poi il mondo va avanti, per così dire, ma è chiaramente un'identificazione di responsabilità, il dire ai governanti: trovate una via d'uscita a questa situazione. Purtroppo ne fanno le spese altri lavoratori. I frontalieri, prima di tutto, no? Per quanto ci riguarda, i frontalieri, quelli tra Lombardia e Svizzera, che fanno anche i pendolari. Bisogna anche dire che tanti che invocano o che paventano la guerra tra poveri, molto spesso, secondo me, stanno in realtà sperando nella resa dei poveri alla globalizzazione, e questo non è possibile. Comunque, stavo vedendo che il ministro degli esteri e presidente della Confederazione Didier Burkhalter ha cominciato a avere contatti informali a livello diplomatico per spiegare ai partner europei, dice, l'esito del referendum di domenica sull'immigrazione. Sono già in corso questi contatti, ci consentiranno di definire meglio se esistono margini di manovra per negoziati futuri e quindi di affinare meglio la nostra strategia. Perché bisogna dire che il futuro degli accordi, così ha fatto sapere l'Unione Europea, gli accordi di libera circolazione, dovrà essere discusso alla luce dell'approvazione di questa iniziativa che si chiama Contro l'immigrazione di massa e che chiede appunto la reintroduzione di quote per gli stranieri. Possono essere questi accordi mantenuti, riesaminati o interrotti. Sia la Svizzera che l'Unione Europea possono farli decadere, però, ha detto Burkhalter, non vi è alcuna volontà politica in tal senso in Svizzera, quindi di far cadere questi accordi. Quindi dovrà il governo, rispetto a questo referendum, il governo federale svizzero, trovare una mediazione, un compromesso? Sì, il governo cercherà una soluzione, perché è evidente che per la Svizzera sono grandi vantaggi nel trattato di libero scambio con l'Unione, gli svizzeri lo sanno e contemporaneamente sono consapevoli che non si può avere, diciamo così, il formaggio senza la crosta, per cui evidentemente la libertà di movimento delle persone va insieme a quella dei capitali e tutto il resto. Però anche per questo referendum oggettivamente manda un segnale all'Europa e alle elezioni europee, perché fa illustra ai cittadini europei che votando si può provocare un inceppamento in un meccanismo che a noi si è presentato come irreversibile. Allora qui, al di là dell'oggetto su cui si può discutere, in questo senso è forte, e quindi il paradosso è che questo voto svizzero potrebbe avere un'influenza sul voto europeo della prossima primavera. Quindi per gli euroscettici, e quindi magari fare anche cose simili in altri paesi, dici? Vittorio, ti si sente molto male adesso. Di quelli che chiedono all'Europa di essere diversa. Non che non sono scettici rispetto all'Europa come idea, ma come l'Europa è venuta avanti in questi anni. È chiaro, certo, c'è questo appuntamento effettivamente di grandissima importanza, ve lo ricordo tra poco, del 25 maggio, le elezioni europee, dove effettivamente, come dice Vittorio Emanuele Parsi, ci potrebbero essere delle conseguenze. Grazie intanto, Vittorio Emanuele. Grazie, buona grazie serata. A voi, scusate per la vita. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E parlavamo appunto poco fa, no, di questioni europee. Bene, a proposito del nostro appuntamento serale, sentiremo tra poco Alessia Mosca, capogruppo PD in Commissione Politiche Europee di Montecitorio, che risponde a Radio 24 sulle tematiche europee in corso, a partire appunto dal referendum svizzero di cui abbiamo appena parlato. A intervistarla c'è Elisabetta Fiorito. Europa 24 notte. Verso le europee. Buonasera da Montecitorio per l'Europa. Abbiamo con noi Alessia Mosca, capogruppo del PD in Commissione Affari Europei. Allora, subito veniamo al caso di questi giorni, onorevole Mosca, il caso svizzero. L'Unione Europea farà qualcosa contro questo referendum per i lavoratori europei e italiani? È un bene che l'Europa abbia preso posizioni molto forti, molto nette. Sosterremo questa posizione forte contro questo referendum, anche perché come Italia abbiamo tutto l'interesse a fare in modo che ci sia una tutela dei nostri lavoratori. Sosterremo fino in fondo tutte le azioni che l'Unione Europea vorrà fare di ridiscussione, mettendo la Svizzera davanti a fatti evidenti, per cui non possa essere conveniente per la Svizzera stessa rinegoziare tutto. Ora, riguardo invece alle elezioni europee che si avvicinano, noi notiamo che col fronte di Marine Le Pen in Francia, insomma, si sta paventando un fronte sempre più anti-europeo. Come si colloca il Partito Democratico e vede questo pericolo anche in Italia? Chi vota per queste forze vota anche per il fatto che l'Europa sia fuori da tutte le dinamiche globali, perché nessun paese singolarmente dei paesi dell'Unione Europea è in grado di andare a un tavolo negoziale per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda tutti gli scambi con gli Stati Uniti, con la Cina, con tutti i paesi emergenti. Quindi voi combatterete, ma vedete questo pericolo in Italia, non so, col Movimento 5 Stelle, con Berlusconi, c'è chi lancia anche l'idea di un referendum sull'euro? Combatteremo ogni volontà di quei movimenti che utilizzano in modo strumentale degli slogan senza rendersi conto che le conseguenze sui paesi, sui cittadini sarebbero deleterie. Uscire dall'euro, che è uno slogan che fa molta presa, in realtà significherebbe per il nostro paese il 30% di crescita in meno, quindi vuol dire costringere il nostro paese a una condizione di povertà alla quale noi non vogliamo dare nessun seguito. Riguardo invece all'eventuale voto sugli OGM dei 28, che posizione ha il PD? Il Partito Democratico intanto vuole fare, continuerà a fare una battaglia che è tipica del nostro paese. Noi abbiamo delle peculiarità di produzione agroalimentare, di produzione alimenti, che sono una specificità che deve essere maggiormente tutelata. Noi abbiamo fatto e continueremo a fare una battaglia per il Made In, che possa lottare molto fortemente contro la contraffazione, contro l'utilizzo strumentale di prodotti che vanno a penalizzare la nostra alta qualità. È chiaro che il Partito Democratico non si pone contro un avanzamento della ricerca, però per noi viene prima la priorità assoluta di cercare di valorizzare al meglio quello che noi produciamo, e lo produciamo molto bene. Allora, ringraziamo Alessia Mosca, ricordiamo capogruppo del PD in Commissione Affari Europei qui alla Camera. Un saluto da Montecitorio. Grazie mille, grazie, buonasera. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E vedo ancora molti dei vostri messaggi, ma adesso vi devo raccontare invece un'altra vicenda. E saluto Fausto Manara. Ciao Fausto. Ciao Roberto. Psicoterapeuta e psichiatra, notissimo, da anni si occupa di adolescenti. Bene, sapete di questa storia di questa ragazzina vicino Padova che si è suicidata buttandosi da un palazzo, una 14enne, era stata presa di mira sui social network, più volte accusato di favorire il cosiddetto cyberbullismo. Si chiama Ask, A-S-K, è molto frequentato tra i giovanissimi, soprattutto tra 13 e 16 anni, si basa sul meccanismo della risposta, della domanda e della risposta, è un continuo conversare in modo anonimo tra i giovanissimi, e lei era stata presa di mira con insulti, con istigazioni, suicidati, sei strana, meriti di stare sola, culone, insomma di tutto. E alla fine molti adolescenti che sono fragili finiscono, non è la prima volta che succede una cosa del genere, ed è un po' nel mirino questo social network. Ma Fausto, come si fa a fare in modo che gli adolescenti non cadano in queste trappole, soprattutto in queste spirali che poi hanno questi esiti così terribili? Ma come si fa? Il problema è a monte, il problema è che c'è oramai una diffusione di questi riempitivi della solitudine dei ragazzi, con cui hanno l'illusione di poter entrare in contatto finalmente con altre persone, e questi social network danno anche la possibilità di dare un nuovo bruttissimo volto alla logica del branco, il branco che si avventa contro persone che attraverso i social network dichiarano la loro solitudine, le loro difficoltà, e il branco alla fine finisce per, appunto, per sbranarli, per renderli ancora più soli, rendere ancora più le loro difficoltà più pesanti. Ma quindi tratta... Fausto, la soluzione quale sarebbe? Quella di non di strapparli dal computer, di controllarli, di non farli partecipare, soprattutto perché sono anonimi poi, no, questi social network, quindi non si può neanche individuare. La soluzione sarebbe quella di, come dire, di consigliare i genitori a mettersi nell'ordine di idee che il mondo in cui vivono questi ragazzi con queste opportunità patologiche è un mondo che ha bisogno, ha la necessità che venga fornita loro degli anticorpi più grossi per poter affrontare tutto quello che devono affrontare. Di fatto i genitori, come nel caso pare anche della ragazzina di in questione, hanno le loro difficoltà, hanno difficoltà a capire il mondo in cui vivono i ragazzi, non riescono a capire le difficoltà che i ragazzi incontrano nel vivere nel loro tempo. Evidentemente questa lontananza, questa difficoltà di comprensione fa in modo che i ragazzi parlino ai genitori attraverso i sintomi e parlino poi dei loro, i genitori poi non capiscono, e parlino dei loro sintomi attraverso i social network, con una evidente ricaduta negativa, perché poi i social network, con l'anonimato, dà la possibilità di sfogare le altre difficoltà che altri ragazzi vivono, che vengono buttati addosso a quelli che sono più deboli. Insomma, il problema del rapporto tra i pari oggi è un problema serio, un problema di cui dovrebbe occuparsi la scuola. Quando in classe viene lasciata la possibilità di portare i cellulari e i cellulari possono venire usati durante le ore di lezione, questo la dice lunga sul disinteresse che c'è nei confronti di un livello educativo che i ragazzi oggi non hanno a disposizione. Questo in linea generale, certo non si può generalizzare in assoluto, però certamente questo succede in termini estremamente diffusi. E il fatto che ci sia l'innesco di patologie, anche comunque dell'esasperazione di patologie come in questo caso, è dato dal fatto che, per esempio, io mi sono occupato a lungo, mi occupo di disturbi alimentari, e si vede che la causa più frequente di esordio di un'anoressia è scatenata dal fatto che i compagni di scuola, i pari, facciano delle critiche sul corpo, sul fatto che una ragazzina è un po' sovrappeso, un po' grasso, da cui poi la dieta. Potrebbe servire, Fausto, visto che abbiamo ancora un minuto, dire ai genitori di sostenere, anche se non so quanto serve, a dire sei bello, sei bella, stai bene, non ti preoccupare, poi quando crescerai prenderai la tua strada, anche in questo senso, no? I genitori dovrebbero prendere la strada di dare ai ragazzi il peso, il valore, un valore diverso anche in famiglia, cioè ascoltarli, chiedere i loro consigli, farli sentire parte integrante di un mondo al quale appartengono. Beh. E sostenerli così ogni tanto, sì, lascia un po' il tempo che trova. Dovrebbe essere un lavoro e un'attenzione costante dei genitori ai loro figli, ascoltando quello che hanno da dire, non contraddicendoli sempre, perché quello che devono dire i ragazzi... Grazie Fausto Manara, torneremo a parlarne inevitabilmente, perché è un argomento di quotidiana importanza. Grazie Fausto Manara, a tra poco.